Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno, questo è Ferry Boat e io sono Enzo Argante, il traghettatore. Questa puntata è dedicata ad una città, ad un particolare tipo di città, una città senza automobili. Riuscite ad immaginarla? Probabilmente no, anche perché in Italia è inesistente. Non è così scontato in altri paesi, lo vedremo nel raccontare questa storia con l'aiuto dei nostri ospiti. Vi dico soltanto, giusto per entrare nel clima e anche per colpire un po' la vostra attenzione, che noi siamo sicuramente abituati ad avere l'automobile e magari parcheggiata anche sotto casa, ma ci sono città in Europa molto vicine e conosciute dove invece questo non è così scontato. A Barcellona e a Friburgo, per esempio, è solo il 30% degli abitanti che usa l'automobile, così come a Parigi e a Londra le statistiche dicono che 30 abitanti su 100 sono proprietari di un'automobile. Poi c'è Amsterdam, dove il car sharing trionfa, o Stoccolma, dove peraltro si usa moltissimo la bicicletta. Quindi ci sono delle città che possiamo immaginare, forse anche progettare, perché non realizzare, dove l'automobile che inquina, che travolge e che congestiona, non è protagonista necessaria ed assoluta. Su questi temi, anche in vista del sempre citato e ancora incomprensibile Expo, ci sarà anche una grande mostra a marzo dell'anno prossimo, Green Life, costruire città sostenibili. A curare questa mostra ci spiega come è fatta. Buongiorno Maria Berrini, presidente di Ambiente Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Maria. Allora, che cos'è questa mostra e come si innesta in un progetto di città sostenibili? La mostra è una mostra che si organizza alla Triennale, che è la principale istituzione, diciamo, che da sempre ha messo in mostra le opere, le esperienze di grandi architetti, di grandi designer e delle città migliori del mondo. Quindi è il luogo giusto dove fare una mostra di questo tipo. Noi vogliamo portare, mettere in mostra, dimostrare, diciamo, ciò che è possibile fare, cioè ciò che è stato fatto nelle grandi città europee, soprattutto nelle città europee, ma ovviamente avremo uno sguardo anche al resto del mondo. Ciò che è stato fatto in termini di capacità di pensare, progettare e costruire quartieri ed edifici sostenibili. Cosa intendiamo dire? Quartieri ed edifici in cui prima di tutto l'auto non la faccia da padrona, quindi, come giustamente si è detto, quartieri ed edifici che siano accessibili e ben serviti dal trasporto pubblico, in cui gli spazi per i pedoni, per le biciclette siano ampi, confortevoli, diciamo ben competitivi con quelli delle auto, in cui il numero, la sosta sia limitata, la velocità sia compatibile e limitata, la velocità delle auto sia limitata e quindi di nuovo biciclette e pedoni abbiano lo spazio che si meritano. Questo è un po' l'idea. D'altro canto, immaginavo ascoltando, le città italiane sono un po' speciali, un po' croce, un po' delizia su questi temi. Delizia perché chiaramente la bellezza delle nostre città rende ancora più impellente e più, come dire, gradevole poi poterle vivere senza automobili. D'altro canto è difficilissimo nelle nostre città poter intervenire in termini infrastrutturali per costruire alternative al trasporto automobilistico. È così? Intanto le città, le nostre città, hanno una dimensione che le rende assolutamente perfette per muoversi al loro interno col trasporto pubblico o a piedi o in bicicletta. Voi avete in mente non solo le nostre grandi città, Milano, Roma, Napoli, ma la maggior parte delle nostre città, anche importanti capoluoghi di provincia, sono città che si attraversano in bicicletta in 20 minuti, che si percorrono piacevolmente a piedi, proprio perché sono città fatte di centri storici, di spazi pubblici, di luoghi anche esteticamente gradevoli in cui camminare con lo sguardo verso il cielo è assolutamente piacevole. Quindi le nostre città sono strutturalmente fatte per il trasporto pubblico, per la pedonalità e per la ciclabilità. Il problema è che sono state invase dalle auto e quindi lo spazio per i pedoni si è ristretto, la sicurezza per i ciclisti è scomparsa e anche l'idea che il trasporto pubblico sia un mezzo moderno, che è l'idea che sta in tutte le città europee del mondo. Il mezzo pubblico è un mezzo moderno e l'auto è un mezzo vecchio, superato, del secolo scorso. Ecco, c'è davvero anche un problema, diciamo così, in parte culturale, che da parte della politica deve essere ripresa e rilanciato, e ovviamente le città devono essere organizzate per i ciclisti, per i pedoni, per gli amanti del trasporto pubblico. È possibile, si certo. può fare, io penso che le dimensioni delle nostre città ce lo permettano assolutamente. Ecco, e in questo senso l'Expo 2015 non è solo un grande business o potenziale business per Milano, la Lombardia e per l'Italia, ma in realtà l'Expo è un grande momento di attenzione su questi temi, quindi potrebbe essere molto, come dire, utile per accentuare questa sensibilità. Cosa sarà l'Expo? Obiettivamente in questo momento non lo sa nessuno. Noi sappiamo cos'è stato l'Expo in altre città che l'hanno ospitato. Io penso a una città come Hannover, per esempio, che l'ha ospitato nel 2000, per Hannover, che pure ha avuto problemi a fronteggiare l'Expo in termini economici, ma l'Expo è stata l'occasione per dare alla città le infrastrutture di trasporto pubblico che già aveva, ma diciamo di completarle, di modernizzarle, ed è stata poi l'occasione per realizzare dei veri e propri quartieri senza auto, comunque in cui l'auto aveva un ruolo molto ridotto, poi quartieri, diciamo, ad altissima efficienza energetica, quartieri in cui la raccolta differenziata dei rifiuti era molto più spinta, ben organizzata. Quindi ci sono città, adesso io ho citato Hannover, ma potrei citare anche Saragozza, per esempio. E di altre di cui parleremo ancora. Maria Berrini, grazie. Grazie per questo intervento. Salutiamo Maria Berrini. E avete sentito? L'automobile è un po' la grande imputata e anche la responsabile di alcune disfunzioni in città, quindi il collegamento appena fatto da Maria Berrini con i rifiuti, la raccolta differenziata. Senza automobili, chiaramente stiamo immaginando e prefigurando un ambiente virtuoso, non certo criminalizzando l'automobile, ma senza automobili chiaramente è tutto molto più semplice, e non è solo un discorso da ambientalisti, permettiamoci pure anche le virgolette passate e presenti, tant'è vero che per esempio nell'Associazione Milano Sostenibile, di cui parliamo adesso con Marco Menichetti, che è responsabile dell'osservatorio delle emissioni sostenibili del VAS Lombardia. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. L'associazione, dentro ci sono Fondazione Calipro, Camera di Commercio, Comune, Regione, Provincia, quindi il tema è sentito a tutti i livelli, istituzionale compreso. Il tema è sentito da tutti, sono stati fatti anche una serie di analisi e presentate al pubblico, ai cittadini e alle associazioni, con delle proposte innovative e anche abbastanza semplici per portarci in linea con gli esempi più virtuosi che ci sono in Europa e nel mondo. Ecco, c'è un progetto comunque, che è il primo progetto italiano che definisce un concetto di centrale di mobilità. Che cos'è esattamente? È un progetto che nasce in questo caso in Italia dal basso, dalle associazioni, dei cittadini, e che prende spunto dalle esperienze europee già molto sviluppate, tipo il caso tedesco, per cui dal 91 sono nate queste centrali di mobilità, oggi ne esistono 60, sono dei punti di aggregazione, diciamo così, della domanda di mobilità, per mettere assieme poi tutti quei servizi e offrire al meglio le possibilità di viaggio, soprattutto in ambito urbano. Per spiegarsi meglio, un esempio pratico quale potrebbe essere? Oggi l'esempio pratico, posso fare un esempio al contrario, che oggi quando mi muovo nelle nostre città italiane, ad esempio se prendo un treno e prendo un autobus, devo fare due biglietti, devo andare a due sportelli, devo organizzarmi il viaggio autonomamente con tante difficoltà. La cosa positiva è che invece la centrale di mobilità, sia telefonicamente o via web, ma anche fisicamente con uno sportello, ti può mettere assieme queste offerte di mobilità, dartele tutte nello stesso momento, possibilmente anche facendoti degli sconti. Quindi io mi muovo un pezzettino, ad esempio con la bicicletta, e trovo lo sconto per la riparazione quando ho bisogno. Con lo stesso servizio mi mettono a disposizione il biglietto per l'autobus, per il tram o per la metropolitana, e mi fanno salire, ad esempio con la bicicletta, sul treno per potermi muovere su percorrenze un po' più lunghe. Tutto questo si può fare organizzando le informazioni, organizzando i servizi già esistenti sul territorio. Ecco, da questo punto di vista in Italia non siamo molto avanti, non ci sono degli esempi da citare di realizzazione fatta su questo tema. Ci sono esempi in parte partiti o sperimentati di integrazione tariffaria, tipo la regione Campania, che per una volta la possiamo citare sicuramente in termini positivi, cioè con un unico biglietto ci si muove sul territorio in modo integrato. Ci sono esempi di servizi informazioni, quindi più uffici informazioni che ti danno una serie di informazioni per il tuo viaggio, non c'è la vera e propria centrale di mobilità che fa tutto assieme e che mette nella condizione di viaggiare in modo intelligente, in modo comodo, possibilmente anche risparmiando e possibilmente lasciando a casa la propria auto o utilizzandola solo per il percorso di cui veramente se ne ha bisogno. Grazie a Marco Menichetti. E questo vuol dire, come avete capito e intuito già da quello che abbiamo ascoltato fino a questo momento, anche ridisegnare un concetto di marketing urbano, per usare un termine pomposo, cioè costruire in maniera diversa quartieri, strade, e forse non costruire più parcheggi, potrebbe essere incredibile. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci, Giovanni Pesce, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ho appena detto, prima dell'interruzione che casca proprio a fagiolo, informazioni sul traffico, abbiamo parlato di un concetto di nuovo marketing urbano che bisogna sviluppare e immaginiamo a tutti i livelli, dall'università ai media. Certo, e ci sono vari livelli su cui questo marketing urbano, diciamo, agisce. Da un lato c'è il target interno, diciamo, delle popolazioni, degli abitanti delle città. È noto, e lo sanno tutti gli immobiliaristi, che le zone molto trafficate, poco servite dai mezzi pubblici, si svalutano, mentre le zone più appunto apprezzate sono quelle silenziose, con poco traffico, con una buona distinzione tra traffico di scorrimento e traffico locale, aree a 35 km all'ora, quindi con limiti che permettono una convivenza armoniosa tra utenti come i ciclisti e i pedoni e le automobili. E questo è, diciamo, il target interno, il fronte interno del marketing urbano. Poi c'è il fronte esterno, diciamo, quindi una buona sistema di mobilità ben calibrato sui varie opzioni, quindi non incentrato tutto sulle auto, dove le auto sono solo una delle soluzioni, ma ci sono anche appunto mezzi pubblici, marciapiedi ampi e non ostruiti da auto. Questo è un piccolo appunto che faccio soprattutto su Milano, che è una città dove i marciapiedi non sono proprio disponibili, dici. Sì, esatto, che è una cosa, amici newyorkesi, che dove New York è notorio come anche a Parigi il marciapiede è sacro, è inviolabile, non può essere toccato, e si stupiscono sempre di vedere che invece qua le auto è tollerato l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte delle auto, di gente che parcheggia sul marciapiede. Ecco, insomma, marciapiedi ampi, mezzi di trasporto, mezzi pubblici, metropolitane, mezzi di superficie, eccetera, sono un po' spesso l'emblema delle città. Uno ricorda le città per le zone pedonali, non certo per le aree trafficate, per quello che un visitatore, piuttosto che un decisore che deve decidere la localizzazione di headquarters o insomma di quartier generali di grosse imprese, piuttosto che un turista d'affari, va in una città non certo perché è congestionata di traffico, ma perché ha spazi pubblici fruibili e un'ampia disponibilità di mobilità. La sensazione che si ha, però, ascoltando questi sacrosanti ragionamenti, è che siano progetti veramente imponenti, e cioè che ci vuole tanto tempo per poter cambiare le cose. Sì, si tratta di prendere una direzione e perseguirla con determinazione per qualche anno, se non decennio. Una grande opera, una delle grandi opere che l'Italia aspetta, che spesso non sono le opere più vistose e faraoniche, ma sono appunto una grande opera fatta di tante micro opere che sistemano questa situazione di centri urbani cresciuti senza appunto una buona pianificazione dei mezzi pubblici. Ricordo che, tra l'altro, molte città hanno proprio come emblema, proprio da cartolina, diciamo, proprio il simbolo della città sono i suoi mezzi pubblici. Ricordo i double decker, cioè i bus dei piani di Londra, i black cab sempre di Londra, le biciclette di Amsterdam, la metropolitana costruita nella Belle Époque di Parigi, i marciapiedi di New York, piuttosto che ancora la metropolitana di New York, i taxi gialli di New York. Insomma, la città proprio si riflette e ha un suo simbolo, un suo potente strumento di marketing nei mezzi di trasporto, soprattutto nei mezzi di trasporto appunto pubblici. Non conosco nessuna città che sia famosa per le sue auto private. Grazie Giovanni Pesce, grazie. L'evocazione che ci porta questo ragionamento è che le nostre città d'arte sono assolutamente, come dire, categoriche nell'atteggiamento nei confronti del traffico, o assolutamente aperte o assolutamente chiuse, isole e pedonali. È come se non si fosse riusciti a trovare nel frattempo questa misura fra le esigenze del vivere civile e sostenibile e quello del movimento di uomini e di merci. È per questo che con Fabio Casiroli, buongiorno. Che è un architetto esperto di questi temi sul piano internazionale, siamo costretti ad andare un po' fuori, non solo dall'Italia probabilmente, ma anche dall'Europa, con un'eccellenza su tutto, una città che sicuramente le conosce a menadito, che Vauban, ammesso che si pronunci così, è una città un po' speciale. È un'eccellenza a livello internazionale, cioè un caso particolare? Beh, diciamo che è un caso particolarmente noto, però forse vale la pena di partire da altre realtà che sono più vicine alla nostra consapevolezza quotidiana e che credo tutti i nostri interlocutori siano in grado di cogliere con maggior freschezza e maggior conoscenza. Le voglio parlare ad esempio di Berlino. Berlino, che è una città che ha dedicato una quantità enorme di risorse nella costruzione di un eccellente sistema di trasporto pubblico, che ha permesso a questa città di ridurre potentemente il numero delle auto private. Ce ne sono soltanto 320 ogni 1000 abitanti, mentre nell'area metropolitana milanese superiamo le 750 per 1000 abitanti. Proprio perché offre ai propri cittadini e ai city users che la frequentano ampiamente una vera, formidabile alternativa all'uso dell'auto. E qui io credo debba essere fatta una riflessione di fondo. Sempre si parla in tutte le città del mondo di bastone e carota. Io credo che prima di utilizzare i bastoni, i pubblici amministratori debbano utilizzare le carote. Bastoni, lei dice ovviamente l'atteggiamento della polizia urbana, le multe piuttosto che carattrezzi, oppure divieti? Divieti di qualsiasi natura, la congestion charge, l'eco pass, tutta una serie di misure che in qualche modo tendono a scoraggiare potentemente l'uso dell'auto privata. Ma prima di utilizzare i bastoni io credo debbano essere utilizzate le carote, e la prima carota in assoluto è un sistema di trasporto collettivo efficiente che possa utilizzare anche per i mezzi su gomma moltissime corsie riservate. E un'altra alternativa straordinaria all'uso dell'autovettura è una formidabile rete di piste ciclabili. Questi sono degli aspetti che io credo debbano essere seriamente presi in considerazione. E che su Berlino, lei dice, vivono una situazione di eccellenza. Una situazione di eccellenza, non a caso il risultato che abbiamo sentito, 320 auto contro 750 ogni 1000 abitanti, ne è la controprova. La sensazione, architetto, comunque, che al di là della situazione logistica infrastrutturale, noi italiani siamo stati in qualche modo, come dire, non dico plagiati, ma insomma convinti a comprare l'automobile. Tutti hanno dovuto comprare in qualche modo un'automobile. Ma guardi, io credo che questo sia un processo assolutamente normale, lo vedo in giro per il mondo. Io sto lavorando come consulente della London School of Economics su grandi realtà, abbiamo appena lavorato su San Paolo del Brasile, stiamo lavorando su Istanbul, professionalmente sto realizzando il piano dei trasporti di Tripoli. Ebbene, in tutte queste realtà la motorizzazione è l'autentico sogno delle popolazioni residenti, quindi al di là del fatto di essere in qualche modo obbligati, fra virgolette, a comprare l'auto, c'è anche questo aspetto psicologico molto importante del sogno dell'autovettura. Il sogno dell'autovettura lo si può in qualche modo ridurre offrendo alternative efficaci. Chiaro, chiarissimo e assolutamente convincente. Adesso però mi devi dire qualcosa su Vauban, che sennò intanto la pronuncia e poi due battute, sennò la gente penserà che lei vuole, come dire, boicottare. No, beh, diciamo assolutamente no. È una piccola città che ha fatto in qualche modo un'esperienza interessante, ma io veramente non vorrei andare su questo caso, perché mi sembra un caso, mi scusi se permetto, rispetto alla mia esperienza internazionale un po' fuorviante. Cioè, io credo che invece i casi più significativi siano altri, come ripeto, Berlino da un lato, ma non solo. Le parlo di un altro caso internazionale di straordinaria portata, che è Pechino. Pechino ha fatto, come tutti noi sappiamo, è stata sede dei Giochi Olimpici. Durante i Giochi Olimpici è stato attuato un provvedimento molto importante, che è quello dell'introduzione delle targhe alterne. Ebbene, le targhe, una vecchia conoscenza per noi, vecchia conoscenza, ma che è una misura incredibilmente semplice, che ha avuto un effetto straordinario su quella città. In sostanza, si è ridotto di un quarto il numero di vetture circolanti e si è abbassato rapidissimamente l'inquinamento che ha caratterizzato quella metropoli, fino al giorno 19 di settembre, il giorno in cui si sono completati i giochi paraolimpici. Dal giorno successivo sono rientrate, è stata ammessa la circolazione di tutte le vetture, quindi è caduto quel provvedimento restrittivo e improvvisamente in un solo giorno l'inquinamento è tornato ai livelli precedenti e il livello di caos è tornato a quello dei livelli dei giorni precedenti. Grazie architetto Casiroli, come sentite allora non necessariamente questione impegnativa e infrastrutturale, può anche essere banalmente vecchie care targhe alterne. Vi svelo il mistero di Vauban, una città costruita con criteri particolarmente verticali su questi temi, quindi non ci sono praticamente parcheggi, soltanto pochissime famiglie possiedono un'automobile, gli edifici sono energeticamente efficienti sulla base dei criteri di edilizia passiva e di produzione di energia solare. Sogno proibito dell'automobile, diceva Fabio Casiroli, e Andrea Poggio, che è presidente di Fondazione Lega Ambiente, di automobili se ne intende, e da qualche tempo, Andrea, speriamo almeno sia così, il sogno coinvolge anche le automobili più pulite, non è più solo 0-100 km orari. No, infatti ormai il mercato si sta orientando verso auto un pochino più pulite, certo con passi molto prudenti, siamo ancora alla prevalenza degli ibridi sui motori veramente a emissioni zero, però pensate a dei fatti anche clamorosi che vanno in questa direzione. Pensate che un signore vestito con un maglioncino si è presentato negli Stati Uniti e ha comprato una casa automobilistica equivalente rispetto a quella che lui amministrava, la Fiat ha comprato la Chrysler sostanzialmente su un'idea: io so produrre e vendere automobili che emettono 40 grammi di CO2 meno delle tue a ogni chilometro. Questa è la differenza fondamentale tra i progetti e le auto della Fiat e quelle della Chrysler. Ecco, sostanzialmente con questa idea gli è andato ha raddoppiato la sua capacità di produzione automobilistica. Sicuramente un colpo ad effetto. Ecco, su questo, perché ho avuto occasione di parlare con alcuni esponenti della Fiat, volevo chiederti, te ne intendi davvero tanto, quindi l'auto ibrida non è detto che sia meno inquinante di un'automobile tipo multijet con i motori avanzati tecnologicamente Fiat? Non è così scontato. Diciamo che a parità di prestazioni una macchina ibrida è senz'altro più ecologica. Nel caso di automobili in senso assoluto, le più performanti dal punto di vista sia delle emissioni di CO2 che dell'insieme dei parametri inquinanti sono le piccole macchine cittadine. Nella nostra classifica che pubblichiamo insieme a un network di associazioni ambientaliste ed trasporti europei compaiono al primo posto le auto ibride elettrico-benzina, così come le piccolissime utilitarie ecologiche da due posti, talvolta quattro posti omologati, ma insomma un po' stretti quelli che siedono dietro. Queste sono le auto prime in classifica, che scendono anche al di sotto dei 100 grammi di CO2 a chilometro. Tu sei anche presidente della, se non ricordo male, del Car Sharing Italia. Car Sharing, anche sulla base della mentalità tipica del padrone italiano, del sogno proibito di cui parlava l'architetto Casiroli, può essere un po' diventare un'alternativa importante nelle grandi città? Ma l'idea di fondo è che nella grande città vive meglio chi non ha l'automobile, chi non ha la preoccupazione di dover governare l'automobile come bene proprio, che sta sulla strada o che ha bisogno dell'acquisto o di un affitto di uno spazio in un garage per poter essere conservata, e viene utilizzata relativamente poco se uno ha dei brevi spostamenti urbani che può fare in tram o in bicicletta. Pensate allo sviluppo che può avere la rete di trasporto pubblico nei centri delle nostre città e alla possibilità di spostarsi rapidamente in bicicletta o a piedi. Insomma, incomincia a esserci il fenomeno nelle città italiane, che c'è già stato nelle grandi città europee servite dai mezzi pubblici, della diminuzione del tasso di motorizzazione. Milano dal 1990 ad oggi ha perso 50.000 abitanti, ma 200.000 macchine. Non è male, grazie Andrea Poggio, grazie a tutti voi di averci ascoltato. Questo è Ferribot, io sono Enzo Argante, il traghettatore. Alla prossima puntata.